Vi è un termine nella parola di Dio di un valore non indifferente, sia perché è citato centinaia di volte, sia perché non comprenderlo preclude la possibilità di amare Dio e di piacergli. Questo termine è la parola mondo. Come in tutte le lingue, un vocabolo può essere polisemico, cioè avere più significati. Così il termine mondo viene citato nella parola di Dio almeno con 4 sfaccettature. A volte è usato nel senso dell'universo materiale della terra, come è usato nella preghiera che Gesù rivolse al Padre. Ora dunque, o Padre, glorificami presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Giovanni 17, 5, 24, Giovanni 1 e 10, Marco 16 e 15. Altre volte il termine viene usato per indicare gli abitanti della terra, come troviamo scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3 e versetto 16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Anche in Giovanni 17, 21. Il termine mondo viene usato nella parola di Dio anche per esprimere l'idea dell'intera razza umana alienata da Dio e ostile alla causa di Cristo. Gesù lo cita spesso nella preghiera sacerdotale. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e costoro hanno conosciuto che tu mi hai mandato. Giovanni 14, 17, 23, 2, 7, 15 e 18, Ebrei 11 e 38, emoticon ammiccante. Infine, il termine mondo nella Bibbia indica anche le faccende mondane, l'insieme dei beni materiali, donazioni, ricchezze, profitti, vincite, piaceri, i quali, sebbene vuoti e fugaci, eccitano la cupidigia dell'uomo e lo distolgono da Dio, tanto da essere ostacoli alla causa. Questo termine lo troviamo in una drammatica domanda che pone Gesù a tutti gli uomini. Che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima? Ovvero, che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Matteo 16, 26. Proprio perché il vocabolo mondo ha più significati, leggendo la Bibbia è necessario di volta in volta comprendere a quale di questi essa si riferisce per non commettere l'errore di comprendere in modo errato il pensiero di Dio e di agire di conseguenza. Quando il termine è inteso in riferimento al mondo materiale o agli abitanti della terra, i credenti non hanno divergenze, ma quando la parola di Dio si riferisce alle faccende mondane, al sistema che l'uomo si è costruito nel tentativo di soddisfare i suoi desideri sbagliati nel quale non ci è posto per Dio, al mondo dell'arte, della cultura, dell'educazione, della scienza, della religione senza l'intervento di Dio, e la sfera nella quale il nome di Cristo viene ignorato, proibito e usato in modo formale, o a coloro che sono ostili a Cristo e alla sua causa, allora nascono grosse difficoltà. Difficoltà perché il Dio della parola condanna molto severamente tutto ciò che è sbagliato e contrario al suo volere, e che viene racchiuso nel termine mondo. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. 1 Giovanni 2, 15, 17. L'ordine di Dio è chiaro, e nessuno può mettere in dubbio la gravità di amare il mondo. Giacomo, il fratellastro di Gesù, va oltre e vede nell'amicizia del mondo un atteggiamento sia di separazione o di inimicizia da Dio, sia un atto di adulterio. Adulteri e adultere, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio? 4:4. Tra i tanti aspetti contenuti nell'Evangelo di Cristo, quello di non amare il mondo è certamente uno dei più importanti, e chi desidera compiere il voler di Dio si trova costretto a non ignorarlo. La trasgressione alla legge di Dio è sempre grave, ma spesso un'omissione, come una svista o una dimenticanza, non è così grave come un atto o un comportamento cosciente. Un figlio di Dio potrebbe anche dare poca importanza alla necessità di proclamare la sua fede, e per questo verrebbe meno solo ad un suo impegno, ma se ama il mondo e gli si trova ad essere avversario del suo Salvatore e a amare qualcosa o qualcuno, oltre Cristo Gesù diventando in tal modo adultero. Perciò amare il mondo diventa uno degli atti più deplorevoli nel comportamento di chi ha posto fede in Gesù Cristo quale Salvatore e Signore. È anche uno degli aspetti più difficili da individuare perché è quasi impossibile comprendere quando qualcuno ama una determinata cosa. L'amore ha a che fare con un atteggiamento interiore più che con l'esteriore, anche se l'esteriore non è del tutto ignaro. Io posso nutrire una vera passione per lo sport, anche se non posso dedicare ad esso molto tempo perché le circostanze me lo impediscono. Quando è che si ama il mondo, cioè il genere umano lontano da Dio e ostile alla causa di Cristo? O le faccende mondane, l'insieme dei beni materiali che eccitano la cupidigia dell'uomo e lo distolgono da Dio tanto da essere ostacoli alla causa di Cristo? L'esempio più eclatante di amore per il mondo è quando ci si unisce mediante vincoli sociali o sentimentali con chi non ha scelto Cristo, quale guida della propria morale. Un credente che inizia un'attività con un non credente, un figlio di Dio, che si unisce in matrimonio con chi non è nato di nuovo, rappresentano persone che amano i loro interessi, sia materiali che affettivi, più di Cristo. Anche se l'Apostolo Paolo non avesse ordinato ai credenti di Corinto «Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo diverso» 2 Corinzi 6 e 14, è evidente che vincolarsi a chi non è vincolato con Cristo è mettere Cristo al secondo posto. E, vero che il credente forse non ha rinnegato il suo impegno nei confronti di Cristo, è vero che la scelta di vivere per Cristo è sempre valida, ma essa è stata svalorizzata o disprezzata nel momento in cui si sceglie qualcosa o qualcuno che è nemico di Dio. E come dice Giacomo, chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Sono parole forti, ma un'amicizia ricercata a tutti i costi non è affatto buona come si pensa. Quando un credente per essere accettato dalla società viene meno ai principi di Dio, quando presenta un messaggio del Vangelo che non porta ad una reale conversione a Cristo, quando non condanna apertamente pratiche pagane come il culto ai santi e le preghiere per i morti, sta già realizzando l'amore per il mondo. L'amore per il mondo non è ascoltare la radio, guardare la televisione, avere una casa, una macchina, avere una discreta somma di denaro, ma nutrire per queste cose una importanza che superi l'impegno verso Dio e il suo regno. Se Gesù Cristo non è conosciuto, se il suo regno non avanza come dovrebbe, è perché coloro che hanno dichiarato di appartenere a Cristo sono venuti meno alla loro promessa e gli impegni della vita, le ricchezze mondane, la loro reputazione hanno soffocato la voce della persona dello Spirito Santo. I credenti in Cristo Gesù sono costituiti i suoi testimoni, sono chiamati a testimoniare sul lavoro, negli uffici, negli ospedali, agli amici, ai parenti, ovunque essi siano. Gesù disse ai suoi discepoli, «Io vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo». Giovanni 15,16. Gesù ha scelto i suoi non perché facciano amicizie con il mondo, ma perché portino frutto con la parola del Vangelo. Per quanto il vocabolo mondo rimanga comunque una parola abbastanza vaga, un aspetto dovrebbe essere evidente. Il mondo e il cristiano non possono andare d'accordo. Il cristiano non solo non deve fare amicizia con il mondo, ma deve addirittura dichiarargli una ostilità. Quelli che abbandonano la legge lodano gli empi, ma quelli che osservano la legge fanno loro guerra. Proverbi 28,4. Proprio perché vi è questo conflitto aperto tra ciò che è mondo e colui che ubbidisce ai comandamenti di Dio, Gesù ha rassicurato coloro che lo seguono con queste parole. Il mondo non può odiare voi, ma odia me perché io testimonio di lui, che le sue opere sono malvagie. Giovanni 7,7. Queste parole sono rassicuranti e più che appropriate per i seguaci di Cristo perché sono in grado di togliere nell'intimo di chi compie la volontà di Dio ogni senso di colpa e di vittimismo. Toglie i sensi di colpa perché non andare d'accordo con il prossimo è sempre un conflitto morale. In una società moralizzata di perbenismo, anche se la contesa è opera degli altri, scaccia il sentimento di vittimismo. perché i cristiani sanno di essere odiati non per un fatto personale, ma per il messaggio che portano. Questi due aspetti dovrebbero rendere ogni figlio di Dio esente da complessi di natura morale e di autocommiserazione. L'apostolo Paolo ha dedicato la sua vita a portare un messaggio di pace, ma aveva nemici ovunque. Si era sempre prodigato per il bene del prossimo, ma è stato trattato da ingiusto. Pochi come lui hanno avuto opposizione e ricevuto odio e 195 sferzate. 2 Corinzi 11 e 24. Ma per il suo grido, io so in chi ho creduto. 2 Timoteo 1 e 12. Amava tutti fino a deporre la sua vita per loro. E per quello che riguardava il mondo egli disse: quanto a me non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signor nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo. Galati 6 e 14. Questa affermazione ha del funebre. L'apostolo Paolo, l'opera sostitutoria e salvifica di Cristo, ha reso il mondo maledetto. Su di lui non ha più attrattive, non è più ragione di desiderio. D'altro canto, anche lui si trova ad essere inesistente e inutile nei confronti del mondo, cioè del peccato. La conversione a Cristo aveva procurato in Paolo una rottura non più riparabile, aveva prodotto una separazione inconciliabile. Chi è passato dalla morte alla vita mediante la fede salvifica in Cristo ha il mondo per nemico, ed egli è nemico del mondo. Può darsi che tu non sappia sempre che cosa sia il mondo. Può darsi che non ti chieda neppure cosa sia il mondo, ma una cosa è certa: se chi ama il mondo è nemico di Dio, se il mondo è crocifisso per il credente, allora sei in obbligo di scoprire non tanto che cos è il termine mondo per te, ma cos è il mondo per te. Dopodiché potrai odiarlo per poter essere amico di Dio. Luglio 2003. Ellero.